Siamo a metà settimana e io mi sto chiedendo cosa fare nel weekend. Avrei voglia di divertirmi, però avrei anche voglia di qualcosa di buono. In che senso? Nel senso che vorrei coniugare la mia voglia di divertimento anche con un fine etico. Come facciamo? Beh, io avevo già pensato a un Ferrero Rocher, però... pieno di R, tra l'altro. Però no, preferirei qualcosa che include anche della musica. Se no non saremo qui a Fujiko Factory a parlarne. Allora, sabato, che è il 12 ottobre, ci sarà un evento che unisce proprio la voglia di musica insieme all'ecologia, quindi anche delle lotte sociali importanti. Al parco del DLF, quindi questo sabato, ci sarà un evento chiamato SOS Amazzonia, un festival, insomma una giornata ricca di eventi che inizia già dall'una del pomeriggio con delle iniziative, la visione di un film, conversazioni su piante sacre e altre cose. Ci sarà anche Davide Toffolo al Chinotto Bar alle 5:30, sappiatelo. Dopodiché dalle 8:30 ci si sposta al Locomotive, sempre nel parco del DLF, per il concerto dell'Istituto Italiano di Cumbia. Yay! Ad ogni modo, al DLF poco tempo fa c'è anche stato un altro bellissimo festival che abbiamo seguito, che è il tutto molto bello. Si terrà un po' così, cioè inizia dalla prima parte della giornata, cioè ci vediamo presto, ci vediamo al pomeriggio. Dimmi un po' di orari, dai. Allora, alle 13 ci sarà l'apertura del festival, poi ci sarà la mostra fotografica di Elisabetta Zazzoli, arte fotografica dall'Amazzonia. Alle 14 il film Food Relovution, che di non è Thomas Mauro Torelli. Che si è sbagliato, ma veramente non è proprio Relovution. Poi alle 15:30 appunto conversazione sulle piante medicinali sacre dell'Amazzonia con Alex Shatra. Alle 16:30 attività di volontariato in Amazzonia e viaggi mistici 2020, quindi anche per chi in futuro vuole partire per l'Amazzonia. Alle 5:30, come dicevamo, conversazione con Davide Toffolo al Chinotto Bar. Alle 8:30 Ukuku DJ, Ritmi del Sud. E dalle 9:30 il concerto live di Istituto Italiano di Cumbia. Beh, in realtà io ti ho un po' mentito, perché io sapevo già che questo evento c'era, però volevo essere sicura che lo sapessi anche tu, e soprattutto volevo un po' anche raccontarlo a chi ci ascolta, per fare sapere anche loro di questa bellissima serata. Ci sono un paio di cose che io so e che sono molto importanti su questo evento. La prima cosa è che viene fatta una sola data in Italia e una data in Perù, quindi è anche molto bello partecipare a questo evento, a questo festival SOS Amazzonia, perché proprio si terrà solamente in questa occasione in Italia. La seconda cosa è che per acquistare i biglietti, che comunque ricordiamo sono a un prezzo molto popolare, non si usano i circuiti classici, esatto, proprio perché i soldi del biglietto verranno devoluti per questo progetto, quindi queste due cose erano importanti. Però non abbiamo detto dove si prendono questi biglietti, li trovate su Produzione dal basso, quindi andate subito a prendere i biglietti, subito, tipo adesso, cioè no, aspettate un altro pochino, che così sentite anche la fine di questa puntata di Fujiko Factory. E soprattutto, dicevo, perché lo facciamo di mercoledì noi di parlare di questo evento? Perché abbiamo un'intervista. Esatto, un'altra delle nostre interviste impossibili, come abbiamo chiamato queste nostre interviste del mercoledì, e siamo riusciti a contattare niente e popò di meno che il frontman dei Cacao Mental. E voi direte, ma perché i Cacao Mental? Perché questo ragazzo fa parte da molto tempo dell'Istituto Italiano di Cumbia. Stiamo parlando di Kit Ramos, che oltretutto è peruviano. Ma pensa a te, c'è la coincidenza, un po' così. Un sacco di cose che si uniscono nel grande cerchio della vita. Pensa a te, e parte adesso la canzone del Re Leone. No, non ascolteremo questa canzone, ma adesso direi che vi lasciamo con una canzone dell'Istituto Italiano di Cumbia, appunto, e poi dopo ci sentiamo per l'intervista a Kit Ramos. Senza frontiere, la cumbia che piace a me, cumbia senza paga. abbiamo introdotto la giornata che ci sarà il 12 ottobre, quindi tra pochissimi giorni, al DLF di Bologna. La giornata si chiama SOS Amazzonia, è un festival che a noi piace molto, sia perché coniuga la musica, che ovviamente è la nostra passione, se no non saremo qui a parlarne, ma anche un argomento molto importante, è un argomento che riguarda l'ambiente. Però per approfondire meglio questa giornata, il tema di questa giornata, abbiamo pensato a un ospite speciale. L'ospite si chiama Kit Ramos ed è al telefono con noi. Ciao a tutti. Ciao Kit, grazie mille per essere qua con noi. Direi che per raccontare al meglio ai nostri ascoltatori qual è la giornata, io ti lancio la palla, ti dico: raccontaci secondo te perché dovremmo venire a SOS Amazzonia, a questo festival. Ok, penso che a prescindere dalla musica e di quello che della festa in generale, è una cosa che possiamo fare parte tutti, dare una mano a un qualcosa di importante per la terra, per il mondo in generale. Quindi essere parte di questa istituzione che aiuta la natura in generale, a prescindere dal paese chi sia, ci fa diventare grandi persone che aiutano il mondo. Cioè, non saprei come descriverlo meglio, ma mi sembra già un'ottima motivazione. Meglio, certo, cioè, ognuno può fare grandi cose in realtà, contribuendo con pochissimo e venendoci a ascoltare e essere parte del mondo, cioè insomma essere parte di questa natura. Esatto, basta partecipare un po' a questa giornata, certo. Anche perché è un argomento che appunto nell'ultimo periodo si sente molto, è diventata una questione molto sentita e urgente soprattutto. Ma a questa giornata appunto voi parteciperete nei concerti pomeridiani, ci sono anche tante altre iniziative che vengono fatte durante la giornata, e sappiamo che ci sarà una data in Italia e una data in Perù. Tu parteciperai a entrambe? Come è organizzata? Guarda, mi piacerebbe tantissimo venire in Perù, ma purtroppo il calendario con la mia band si è allargato un po' tanto in Europa, quindi saremo prossima settimana in Germania, poi saremo un po' in Amsterdam e gireremo un po' come due anni passati per tutta l'Italia questo inverno, quindi sarà un pochettino difficile arrivare fino là, visto la distanza. Beh, allora intanto parliamo di quella di Bologna, concentriamoci su questa. Appunto, tu hai parlato della tua band e in realtà tu suoni in più progetti. A Bologna suonerai con l'Istituto Italiano di Cumbia, giusto? L'Istituto Italiano di Cumbia è un insieme di musicisti che fanno in realtà questo genere, radunati da Davide Toffolo, ti conoscono. Lo conosciamo. Ok, ha messo insieme questo progetto che si chiama Istituto Italiano di Cumbia, appunto perché raduna tutte le migliori band di cumbia in Italia, e quindi Cacao Mental, che siamo noi, facciamo parte di questa iniziativa di Davide Toffolo, che è veramente è una cosa meravigliosa. Quando ci siamo visti per fare il primo concerto, c'è stato subito amore, è andato tutto bene finora. E io sono curiosa, come siete entrati in contatto voi, Davide Toffolo, insomma come vi ha proposto questa collaborazione? Bon, abbiamo fatto questo live e quella sera lì c'è stato qualcuno che conosceva lui che in realtà stava già facendo l'idea di fare un disco chiamato Istituto Italiano di Cumbia Volume 1, e noi non sapevamo niente. Nel secondo concerto abbiamo organizzato un concertino così per gli amici al Magnolia di Milano, e lui era presente lì, l'abbiamo invitato, lui è venuto, è attaccato subito l'amore, anche lui ha visto il live, si è innamorato, è partito tutte le cose sono partite da lì, è diventato il nostro produttore, abbiamo lanciato il primo disco, è diventato proprio una cosa forte fra di noi. Io direi che prima di farti le prossime domande, allora, ti chiederei di consigliarci una canzone della tua band che mandiamo in onda adesso. Wow, è difficile. Allora, ho scritto una canzone per la mia città natale che si chiama Tingo Maria, che appunto racconta una storia un po' fantastica di innamorati di natura, insomma. Niente, parla un po' che queste cose succedono a Tingo Maria, che è l'inizio dell'Amazzonia peruviana, in realtà chiamata così la Ceja de Selva in spagnolo. E direi che se vi va posso mandiamo questa canzone. Perfetto, l'ascoltiamo. Via loca. Pienso desesperado. Tico María. Llega la culebra con su seda negra de una travesía a dar. Llega con sus penas, llega con sus venas a Tingo María dar. En medio del verde queda atrapada, un líquido la va a arreglar. Esa selva viva que llora alegría la comienza a enamorar. María, María, María, Tingo María. Seca de selva. María, María, María, Tingo María. Seca de selva. La tiene en sus raíces, lambiendo cicatrices, con magia la quiere llevar. Y ya en Castillo Chico una voz misteriosa a otro mundo la llevará. Ya no sé si volverá, en qué dimensión estará. Encontró su felicidad, en qué dimensión estará. María, María, María, Tingo María. Seca de selva. María, María, María, Tingo María. Seca de selva. No sé dónde estará la serpiente, la selva llora su ausencia, está arrepentida y viva. Sì, io lo chiedo un attimo sui i Cacao Mental, che tra l'altro sì, nell'ultimo periodo avete fatto concerti un po' ovunque, perché in parecchie line-up di festival, di eventi, usciva il vostro nome. Ma io volevo chiedere, voi siete peruviani d'origine, no, non tutti? No, noi siamo in tre, dei quali c'è Stefano Giascone, trombettista, nonché uomo dell'elettronica, che è milanese. Poi c'è Marco Pampaluna alla chitarra, una chitarra stupenda, e anche lui milanese. Poi sono io, chitarramos, l'unico che è peruviano, e c'è questa fusione anche culturale fra di noi che diciamo è un punto in più alle cose che facciamo. Ok, allora possiamo dire che siete una band più o meno italo-peruviana. Sì, sì. E quanto c'è di peruviano e quanto di italiano, e come queste due culture che hanno molte cose simili e anche alcune un po' diverse riescono a convivere, e quanto c'è nella vostra musica di l'uno e dell'altro? Credo che non ci sia proprio una questione di una quantistica di quanto peruviano o quanto europeo sia su Cacao Mental. Noi siamo musicisti, ci conosciamo da anni, da tantissimi anni. Io sono quasi 20 anni a Milano, quindi Ho suonato in diversi gruppi a Milano, dal jazz al mariachi, alla salsa, al balcanico, insomma. Ci conosciamo nell'ambito della musica e così abbiamo deciso di fare questa musica. Quindi parte proprio da un sentimento. Il mio è questa, il modo in cui io scrivo le canzoni. Poi Stefano Giascone mette la sua parte con l'elettronica, queste trombe allucinanti, così, e le chitarre di Marco Pampaluna, che hanno un stile unico. Cioè, quindi diciamo che ok, la partenza è la cumbia come idea, ma in realtà la fusione è proprio la miscela di tutto questo, ha dato nonché a fare una cosa nuova. Penso che sia tutta la nostra vita nei pezzi, capito? Quindi diciamo che l'idea di cumbia c'è, ma c'è anche di tutto, c'è tutto il mondo dentro lì. Cioè, noi siamo persone molto che ci piace ballare, ci piace la festa. Anche a noi. Anche a noi, confermiamo. Niente, diciamo che è un po' tutto, un po' la nostra vita. La musica ci è posseduto e noi viviamo così. Niente, grazie mille Kit. Noi ricordiamo che la festa Benefit SOS Amazzonia sarà sabato 12 ottobre al DLF di Bologna, quindi un po' al Chinotto, un po' al Locomotive, che si parte dalle 13 del pomeriggio. I biglietti si trovano su Produzioni dal Basso. E a questo punto, Kit, grazie mille per la tua disponibilità, ti chiederei... Grazie a voi. Se hai qualche messaggio o invito da dare a chi ci sta ascoltando per un po' convincerli magari sabato a venire Ma all'evento. Ma penso non ci sia neanche più da convincere nessuno, ormai andranno tutti là sicuramente. Bah, io mi spero tantissime persone, ma quelli che sono indecisi ancora se di venire o no, sappiate che è qualcosa di importante. Cioè, da quei polmoni lì respira il mondo, quindi è parte di noi. E praticamente penso che la natura ci ringrazierà per questo. È parte di tutta la positività che noi aggiungiamo con la musica. E ci divertiremo tantissimo e usciremo felici di aver fatto una cosa buona, sinceramente. Grazie mille. Tutti quanti. Ok, e noi aspettiamo te. Ci vediamo sabato al DLF. Grazie mille. Ci vediamo sabato. Musicale. Toda la noche a trabajar y todos los días a descansar. Vamos. Toda la noche a trabajar. Todos los días a descansar. Toda la noche a trabajar, todos los días a descansar. Per farlo, non parlo di me ma di quello che sento, che è come guardare le stelle lontane, galassie perdute e tutto il firmamento. Non c'entra col vendere birra e tantomeno i dischi. Se resti seduto a quel tavolo muori, quello che interessa è che balli. la giungla che dentro esce dalle tue mani, la bocca, la pelle, la lingua, la gola, le orecchie che sono radici e entrano a terra, perforano il mondo e salgono in cielo fino a raggiungere ora tutto il firmamento. Mi vede da solo, siamo io e la musica, il resto si è perso. Avere paura di quello che sei non ha senso. Rispondi sereno al richiamo del bobo che arriva pesante nel petto. Gambe oramai van da sole, disegnano cerchi per terra, le braccia dritte lungo il corpo a indicare la terra. Che gira attaccata a una stella che chiamano sole, una dei milioni di stelle che ruotano sopra la testa. Galassie perdute, tutto il firmamento. Se resti seduto a quel tavolo muori, quello che interessa è che balli. La giungla che dentro esce dalle tue mani, la bocca, la pelle, la lingua, la gola, le orecchie che sono radici che entrano a terra, perforano il mondo e salgono in cielo fino a raggiungere ora tutto il firmamento. Todos los días a descansar.